Ave Maria, ragazzi, ragazzi carissimi e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Buon Consiglio. Scusate, da Leonardo Maria Pompei. Santa giornata a tutti e pronti ad andare avanti con una nuova puntata del nostro ciclo di conversazione sui 10 comandamenti. La volta scorsa, ecco, scusatemi, troppo stiamo in allergie di stagione. La volta scorsa abbiamo introdotto e quindi cominciate a vedere insieme il discorso sul quinto comandamento, che quindi cominceremo adesso piano piano a sviscerare, entrando oggi più direttamente con l'aiuto dell'Immacolata, sempre nel merito. Una breve, diciamo, sintesi della scorsa volta ci ricorda che numero 1, abbiamo visto, scusate, abbiamo visto la volta scorsa, l'oggetto formale di questo comandamento. Chiaramente non uccidere si applica in primis, alla, vita fisica, ecco, ma è dilatata, secondo l'insegnamento del Vangelo, anche alla vita, diciamo, morale della persona. Abbiamo visto il proverbio che fa più morti la spada, la lingua, scusate, della spada. E abbiamo cominciato a analizzare i primi, ovviamente, diretti, e gravi violazioni di questo comandamento, che sono appunto l'omicidio e il suicidio. Che non serve chiaramente neanche commentarne, diciamo, l'importanza e la gravità. Oggi andremo, se Dio vuole, avanti, trattando altre due, diciamo, esecrabilissime fattispecie, molto molto gravi, ancora più gravi per certi aspetti dell'omicidio, a cominciare dall'abominevole delitto, così viene chiamato, dell'aborto, e anche qualcosa sicuramente sull'eutanasia. Allora, perché il primo non è altro che un gravissimo omicidio, tra l'altro omicidio aggravato dalle circostanze, come abbiamo accennato la volta scorsa proprio in chiusura di puntata, e l'eutanasia non è altro che un suicidio, che pur ammantato di, tra virgolette, potremmo dire, nobili motivazioni e fini, come la presentano, diciamo così, i fautori di questo scelleratissimo atto, non è nient'altro che una vera e propria usurpazione del diritto che spetta a Dio e a Dio solo di stabilire quando si può togliere la vita e quando la si può togliere. Questo è il diritto che non spetta a nessun'altra creatura umana che non Dio solo. Ecco. E quindi entriamo adesso subito direttamente nel merito. Abbiamo detto aborto, abominevole delitto. È definito così, guardate, fratelli, sorelle, carissimi ragazzi e ragazze carissimi, non da chissà quale vecchio documento della Chiesa. Sapete che qualcuno dice, una volta la Chiesa lanciava gli anatemi, invece oggi finalmente la Chiesa non lancia più anatemi, siamo diventati tutti quanti buoni, dialoghiamo con tutti. Ecco, discorso che lascia il tempo che trova, ragazzi e ragazze carissimi, perché abominevole delitto l'aborto è definito dalla Gaudium et Spes, pensate, l'ultima Costituzione del Concilio Pastorale II, del Concilio, scusate, ecumenico, oggi non ci siamo proprio, Vaticano II, che chiuse appunto con questa singolare Costituzione, chiamata appunto Costituzione Pastorale, diciamo così, il primo caso di documento di questo genere verificatosi nella storia della Chiesa, dai toni oltremodo aperti nei confronti di tante realtà e di tante situazioni anche del mondo contemporaneo. Infatti il sottotitolo è Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, il sottotitolo di questa Costituzione. Ecco, però certamente la volontà manifestata dai padri conciliari in questa Costituzione di dialogare, di avere un confronto rapporto, come dire, non violento e sereno con il mondo, non poteva certamente spingersi fino a fare chissà che o chissà che cosa, insomma, no? E fino ad andare addirittura a tradire una verità fondamentale che la Chiesa ha sempre difeso, che è stata quella dell'assoluta sacralità della vita, considerando sempre l'aborto come un delitto terribile e da punire, ecco, vedremo con la massima sanzione canonica prevista dalle leggi. Allora, questo era anzitutto oltremodo chiaro alla coscienza della Chiesa primitiva, la gravità intrinseca di questo delitto. L'aborto, penso che ne abbiamo già parlato, forse a proposito del primo comandamento, forse sì, comunque lo ribadiamo. A voi dovete sapere, ragazzi, che anticamente parlare di peccati mortali fino al V-VI secolo era assolutamente una eccezione, diciamo così, nell'ambito della comunità cristiana. San Giovanni scrive chiarissimamente nelle sue lettere: chiunque è nato da Dio non pecca. Non pecca non significa che non abbia le miserie proprie della vita terrena. Quando Giovanni parla di peccato proprio in senso stretto. Cioè, per parlarsi di peccato in senso stretto vuol dire una persona che offende Dio, quindi che volontariamente su una materia grave agisce in maniera difforme dalla divina volontà. Ora, noi sappiamo, questo è vero anche oggi, ragazzi, ed è vero anche per noi, che nonostante l'umana debolezza, nonostante la lotta che noi dobbiamo affrontare fino alla morte contro noi stessi, contro le nostre cattive inclinazioni e contro le continue tentazioni da parte del demonio, noi però abbiamo la possibilità di vincere e di non peccare mortalmente. Questa è una verità di fede, dogmatica. Quindi la Chiesa ci insegna che a un cristiano giustificato in grazia è possibile tenersi lontano dal peccato mortale. Ecco, proprio perché la redenzione di Cristo non è acqua. Ecco, sappiamo che Sant'Agostino dice che l'uomo chiaramente nello stato di natura decaduta non può, se non sta in grazia, non peccare. Ma se siamo stati redenti da Cristo, siamo stati battezzati, specialmente a quei tempi quando molti venivano battezzati da adulti, tu non soltanto che devi, ma puoi smettere di peccare. Tanto è vero che se uno studia storia della Chiesa, io questo lo ridico perché l'ho detto qualche tempo fa durante una pubblica omelia, è una cosa che ha scosso più di qualche coscienza, proprio in un certo senso stimolando un po' di riflessione, ed era, penso di averne parlato altre volte anche da questi emittenti, però forse gli ascoltatori sono cambiati, quindi comunque ripetita iuvant, dicevano i romani, fino a circa il VI secolo. La penitenza, che aveva tra l'altro una disciplina un po' molto più rigida rispetto a quella attuale, si poteva praticare una sola volta durante la vita. Cioè, dopo il battesimo c'era solo un bonus, d'accordo? Proprio perché il peccato grave era considerato un'assoluta eccezione. E dentro questo contesto normale, ecco, io ci tengo a sottolineare che questo era un contesto normale, però io da prete vi posso dire, ragazzi, che quando una persona si converte veramente, quindi che non è che fa le cose per scherzo, quindi che abbraccia Gesù e che vuole fare vita santa, sinceramente, allora rimaniamo tutti quanti deboli e vulnerabili, certamente sì. Nessuno di noi deve cadere in presunzione o in superbia, certamente sì. Bisogna sempre mantenere un tasso elevato di vita di preghiera e di unione con Gesù, certamente sì. Però i peccati mortali non si fanno più. Quindi non è che questa cosa che era la norma nella Chiesa antica adesso è diventata impossibile. Dico, oddio, oggi invece siamo diventati tutti quanti grandi peccatori. Non è vero. Oggi siamo diventati grandi sciagurati, non grandi peccatori, nel senso che a volte con estrema leggerezza e senza un minimo di ritegno, senza un minimo di coscienza, L'uomo si abbandona e fa i peccati, così come se facesse un bicchiere d'acqua, talvolta anche con la scusetta, diciamo, qualcuno, vabbè, ma tanto che sarà mai, dopo tanto non voglio fare la comunione, mi confesso e buonanotte, non la stiamo a fare troppo lunga, insomma, no? Quindi, ecco, per certi aspetti, vedete come sempre il demonio, anche il fatto che la confessione adesso è diventata ripetibile, che è un grande dono da parte del Signore, se mal interpretato e mal vissuto può diventare una disgrazia, può diventare quasi una sorta di autorizzazione a fare un sacco di peccati, che poi tra l'altro, come ho detto altre volte, se uno usa in questo modo la confessione, sappia che, vi ricordo le catechesi sul primo comandamento, va inevitabilmente incontro a confessioni sacrileghe. Proprio perché la confessione già anticamente veniva definita dai padri proprio come l'ultima tavola dopo il naufragio, l'ultima speranza di salvezza, proprio quando ancora la penitenza era una volta sola, cioè se è stato troppo tentato, ti è capitata una disgrazia grande, sei caduto tra le maglie del demonio, va bene, ti viene data quest'ultima possibilità. Sta attento che dopo, finita questa, sono finite tutte, no? Ecco, quindi tutta questa premessa per dirvi cosa? Che dentro questo clima, diciamo, di giustissimo, a mio avviso, e senso del peccato, senso della serietà e senso del fatto che noi cristiani, quei peccati, non ci abbiamo niente a che fare col peccato in senso stretto, ragazzi. Cioè, io chiaramente, ognuno di noi ha il suo carattere, ho fatto altre trasmissioni su Radio Buon Consiglio, ognuno di noi ha il nostro temperamento, quindi nella nostra vita quotidiana cadiamo in un numero sterminato, enorme, di difetti, a volte anche abbastanza bruttarelli, che si ripetono, però il peccato peccato non si fa, ragazzi. Anche per voi giovanotti, io conosco giovanotti e giovanotte che vivono la castità cristiana seriamente, senza sgarbi e senza vocazione, d'accordo? Quindi poi ci arriveremo al sesto comandamento, io però ci ho già fatto un ciclo di trasmissione, quindi non è affatto vero che si tratta di chissà che o chissà che cosa, perché se una cosa è stata fatta da qualcuno, può essere fatta da chiunque, quindi questa è la regola. Questo per dirvi che alcuni peccati erano talmente proprio abnormi, cioè talmente gravi, che più di qualche autore metteva in dubbio che potessero rientrare tra gli oggetti della confessione. Ecco, questo non ci deve scandalizzare perché la Chiesa, ecco, questo ci aiuta anche a capire bene il senso cattolico della Chiesa. Cioè, quando Gesù dice: guardate che devo ancora tante cose da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Verrà però lo Spirito Consolatore che vi guiderà alla verità tutta intera. Cioè, nel senso che nel corso della storia, la coscienza della Chiesa, senza chiaramente inventarsi nulla di nuovo, perché tutto il Signore ci aveva già detto e dato nella scrittura e nella tradizione, ha però compreso meglio tante situazioni. Come ha compreso che la penitenza si poteva ripetere anche più di una volta durante la vita, cosa che nei primi secoli non c'era. Come ha compreso, vi ricordate, a un certo punto che non era opportuno dare in giro il corpo di Cristo nelle mani dei fedeli? Salvo poi che adesso ultimamente qualcuno ha perso il senno, ecco, è tornato indietro anziché andare avanti. Così ha compreso che le cose che sto per dirvi non erano, come dire, dubbi fondati, nel senso che più di qualche autore aveva il dubbio che per tre tipi di peccati fosse possibile avere l'assoluzione sulla terra, cioè chi li faceva, anziché essere assolto anche dopo lunga e severa penitenza, perché così si faceva, la penitenza si faceva prima, e si faceva tra l'altro in un contesto comunitario, cioè tutta la comunità sapeva che tu stavi in penitenza, c'era l'abito dei penitenti, a un certo punto della messa si usciva e si aspettavano le persone sul sagrato e all'uscita ci si umiliava dicendo: fratello mio, prega per me che il Signore mi perdoni, che sto facendo il mio percorso. Così era la penitenza una volta, ragazzi. Ecco, quindi nonostante questo dice, ma se uno però ha commesso il delitto di apostasia, ricordate l'abbiamo proprio sul primo comandamento, cioè ha rinnegato la fede, anche, come dire, a ragion veduta, diremmo noi, prima di cioè, sbranato, esposto nell'alternativa, che facciamo? Ti facciamo sbranare da qualche tigre o da qualche leone, oppure tu Dici che Gesù Cristo non è Dio e che è Dio l'imperatore? Noi oggi parliamo presto, ragazzi. Io qualche giorno fa ho portato i miei ragazzi al bioparco a Roma e l'abbiamo viste le tigri e i leoni. Io la prima cosa che mi è venuta in mente quando ho visto questi animali, dico: ma tu pensa un po', i nostri cari fratelli cristiani, a trovarsi davanti un bestione del genere, affamato, con quelle zanne che c'ha, essere sbranato vivo da questo? Cioè, noi facciamo presto a dire. Eppure chi per paura di questo rinnegava la fede era considerato apostata, e non è che era considerato, aveva fatto apostasia. E non è, dice, ma vabbè, ma poverino, sai, si è messo paura dinanzi a noi, poverino di che? Era uno dei peccati che dice: hai fatto questo, te la senti, cioè, hai rinnegato Gesù Cristo per paura di dare la vita. Fai penitenza per tutta la vita. Primo peccato che si sospettava non poter essere perdonabili in questo mondo. Il secondo era l'aborto, di cui adesso parliamo tra poco. Il terzo era l'adulterio. L'adulterio, oggi poi ne parleremo sul sesto comandamento, altro che telenovelas, cose che adesso l'adulterio è diventato una cosa assolutamente normale. Non vi dico le penitenze che davano, anzi, poi forse qualcosa ve la dirò, quando arriviamo al sesto comandamento per i peccati impuri. Non avete idea delle. Tu prova a commettere un atto impuro quando ancora, come dire, ci credevano e ci avevano il senso del peccato e della gravità del peccato. Vatti a confessare, poi vedi la penitenza che ti beccai nel primo millennio. Non è mica come adesso che se no che si fa qualche preghiera. Era un guaio, era grosso. Capite, ragazzi? Ecco, il terzo era l'aborto. Cioè, se una madre arriva all'aberrazione di togliere la vita con un gesto da vigliacco a chi porta nel grembo, lei che è da Dio incaricata di proteggerla, di custodirla anche da un punto di vista strettamente naturale, l'ha fatta talmente grossa che faccia penitenza per tutta la vita e si affidi alla Divina Misericordia. E guardate che l'aborto, io penso che sia una delle cose più vigliacche che si possano fare. Io ho già detto in altre circostanze, ragazzi, e adesso faccio la pubblica confessione. Chi vi parla fa tanta fatica a digerire tre tipi di comportamenti. Tanta. Il comportamento dei cafoni, cioè che sono coloro, i cittadini del mondo che risiedono nella città di Cafonia, non so se la conoscete, che è una metropoli più popolata di Città del Messico. Città del Messico conta circa 24 milioni di abitanti, ma Cafonia penso che ne conti 2 miliardi e mezzo di abitanti. Sono abbastanza. È una metropoli un po' sui generis, tanto è vero che c'è il governo internazionale. Ecco. Poi c'è un'altra parte dell'umanità che si è trasferita e che abita nell'isola di Creta, ecco, non però quella dove era vescovo il caro Tito nominato da San Paolo e dove abitavano i cretesi, d'accordo? Ce n'è un'altra di isola di Creta, ecco, in un posto nascosto, ma anche questo molto abitato, dove ci abitano i cretini, ecco. Altra categoria di persone che mi fanno far fatica ad esercitare la carità e la pazienza, ma poi proprio devo praticamente compiere un atto eroico che mi procura quasi lo svenimento per sopportare gli abitanti del territorio di Giuda, cioè non chiaramente i giudei né i nostri cari fratelli maggiori, ma i vili e i vigliacchi. Cioè quelli che pugnalano alle spalle le persone, oppure quelli che, come dire, si approfittano di chi non si può difendere, di chi non si può difenderlo per metterlo sotto i piedi. Non esiste cosa verso cui io provi tanto disprezzo quanto questo tipo di comportamento. E il gesto di chi abortisce è un gesto di questo genere. Io non mi ricordo dove, ho sentito questa storia. Non so se era un racconto o se era una storia vera, ma di fatto che la storia era questa qui, non so se sia realmente successa, perché non riesco a ricordare, però mi ricordo l'episodio. C'era una persona che voleva abortire perché, oh, poverina, c'aveva già 3 figli, era nato, questo sarebbe stato il quarto, dice no, no, adesso basta e quindi abortiamo. Allora un prete che se fosse vera questa storia sarebbe da dargli la medaglia, ha detto che cosa vuoi fare? Oh, tu vuoi abortire? No, guarda, io ti faccio un'altra proposta e se tu accetti questa ti do il permesso e sono d'accordo con te. Gli ha preso una bella pistola carica, gliel'ha messa in mano, ha detto tu adesso vai in faccia. All'ultimo figlio che hai fatto, a questo che ha 2 anni, gliela punti in faccia, gliela punti sulla tempia e gli spara e gli fracassi il cervello. Prova a fare questo, no? Voi capite la provocazione di questo gesto? Perché l'aborto tu te lo fai, ecco, d'accordo, te ne vai in ospedale a spese mie, tra l'altro, a spese mie anche, a spese tue che mi stai ascoltando, a spese tue che mi stai ascoltando. Che l'aborto non soltanto lo hanno legalizzato, ma lo hanno anche messo a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Per cui con i soldi delle mie tasse, delle mie, perché anche i preti, sappiate che pagano le tasse sul quasi nulla che ricevono, hanno il CUD. Ecco, dico, adesso l'avrò dato per molti una notizia sconvolgente. Quindi ci pagano gli aborti. Perché una va lì senza che si accorge di niente. Gli fanno una bella cosetta, gli fanno un bell'interventino, prendono lo chiamano così, quella specie di ammasso di cellule che si porta dentro quella cosa indesiderata, via via via via via via. Se ne va a casa tranquilla, serena e contenta, non è successo niente, non ha sentito niente, non c'era niente, finito il discorso, no? Quindi è un gesto da vigliacco, 2 volte, primo perché colpisce uno che non si può difendere, secondo perché ti mette in pace anche la coscienza, cioè se tu c'hai il coraggio di ammazzare una persona, tu devi vederla spappolata e maciullata davanti a te, se vuoi essere così grande da aver avuto il coraggio di uccidere qualcuno, se no sei doppiamente vigliacco. E questa cosa, voi provate, dice, l'altro giorno abbiamo visto i felini, voi provate ad andare vicino a una leonessa, andatevi a toccare il leoncino che sta vicino a lei, vedete come gli raddoppia l'appetito? È come se avrebbe sbranato in 3 minuti, ce ne mette 30 secondi per farvi sentire. Non c'è nessun animale che sia così animale da non avere questo istinto materno verso i propri cuccioli. La nostra società è giunta a un tale livello di aberrazione che dobbiamo metterci alla scuola degli animali. E non solo su questo, ahimè, come vedremo purtroppo. Quando parleremo del sesto comandamento. Non solo su questo, ahimè. Però, questo per dirvi, scusate, che quando parlo di questa brutta cosa, cioè il numero de degli aborti si è contato in tutto l'Occidente, da quando sono cominciate le prime legislazioni, e c'era qualcuna che l'avevano anche candidato a fare la presidente della Repubblica in Italia, che si vantava negli anni 70 che non si sa quanti aborti ha fatto. Non ho letto un articolo che non, mi pare che un giorno si vantava di quanti ne aveva fatti in una giornata, una quantità industriale, che li faceva con la pompa della bicicletta, quindi aspirando tutta contenta, ecco, come grande battaglia, e finalmente grazie alla loro grande ed eroica battaglia è stato conquistato il diritto di uccidere un essere umano innocente senza andare in galera, anzi, pure a spese nostre. Ma voi vi rendete conto dove siamo arrivati? E se qualcuno di questi cast, di questi nostri cari politici, qualcuno si è chiesto nei giorni scorsi, tanto per fare un nome, Monsignor Negri, ma si può sapere che fine hanno fatto i cattolici in politica? Ma si può sapere che fine hanno fatto? Non c'è più uno che alza la voce. Uno. O qualcuno che adesso si mettono a fare i possibilisti con tutte queste cose delle unioni. Ho letto delle cose in giro su Facebook. Ah no, se non possiamo chiamarli matrimoni gay, però comunque dobbiamo fare le unioni civili, dico. E voi sapete che c'era stata una c'è già stata una proposta, non voglio dire tramite radio da quale schieramento politico proveniente. Non soltanto per fare i matrimoni gay, ma stare attenti, per poter far fare la rettificazione di sesso, quindi se io sono maschietto e mi sento femminuccia e quindi voglio agire di conseguenza perché ho qualche cosa in più da togliere, qualche cosa in meno da costruire, Anche questa spesa del Servizio Sanitario Nazionale. E dopo ci aumentano le tasse, dopo dicono che lo spread sarà alle stelle. Cioè, capito? E questo perché noi non dobbiamo discriminare questi nostri cari fratelli e quindi dobbiamo fargli fare questa cosa a spese nostre. Ma cioè, qui ci sarebbe da mettersi per chi ce l'ha, le mani nei capelli ci sarebbe da piangere, no? Se qualcuno di questi ascolta le parole che sto dicendo io adesso via radio, si strappa tutti i capelli. Ah, qua abbiamo il prete razzista, abbiamo il prete intollerante. Cioè, nessuno vuole mettere al cioè, nessuno vuole, come dire, giudicare le persone che fanno queste. Affidiamo nelle mani della Divina Misericordia. Ma un conto è dirgli bravo, un conto è dirgli, ma prego, accomodati, vuoi fare questo? Te lo pago io. Ma che siamo matti? I cattolici che stanno in politica, d'accordo, dice, oddio, abbiamo il deficit, c'è la crisi, c'è questo, c'è quell'altro, dobbiamo pagare il debito, se no andiamo come la Grecia, bancarotta, cominciamo a togliere l'aborto gratuito, che problema c'è? Vuoi ammazzare una persona? Ma scusa, ma almeno te la paghi, eh? Che te lo devo pagare io, te lo devo pagare? Dove sta scritto questo? Dove sta scritto? Scusate, no? Allora. Giovanni Paolo II, tanto per fare un altro esempio di un altro papa buono, perché Giovanni Paolo II era sì buono, d'accordo, aveva uno stile anche lui, un po' meno mi sembra, sinceramente, molto comunicativo, è stato il primo grande papa mass mediatico, d'accordo, aveva uno stile dialogico, è stato il primo papa che è andato in giro a entrare nelle moschee, nelle sinagoghe, insomma, i gesti storici, eccetera. Però ha scritto un'enciclica che si chiama l'Evangelium Vitae e non solo quella. E dopo la pausa, che sono le 17, vorrei leggere con voi che cosa ha scritto il beato Giovanni Paolo II a proposito di questo delitto in questa enciclica. Però adesso vi invito sempre a fare questo istante di pausa per salutare alle ore 17 la nostra mamma del cielo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Allora, quello che vi stavo dicendo, ragazzi, è questo. Evangelium Vitae 1995, il beato Giovanni Paolo II, papa molto buono anche lui, però papa molto santo, scrive queste parole: con l'autorità che Cristo ha conferito a Pietro e ai suoi successori, quindi attenzione, sta parlando da papa e sta parlando tra virgolette quasi ex cattedra, perché cita in senso stretto l'autorità che Cristo ha conferito a Pietro e ai suoi successori. In comunione con i vescovi che a varie riprese hanno condannato l'aborto e che nella consultazione precedentemente citata, pur dispersi per il mondo, hanno unanimemente consentito circa questa dottrina, quindi prima di scrivere queste cose si è consultato con tutto l'Episcopato mondiale, dichiaro che l'aborto diretto, attenti, cioè voluto come fine, attenzione, o come mezzo, adesso vi spiego questa cosa qui, costituisce sempre un disordine morale grave, in quanto uccisione deliberata di un essere umano innocente. Vedete, non uccidere e non ammazzare. Un bambino, un essere innocente, per antonomasia. Tale dottrina è fondata sulla legge naturale e sulla parola di Dio scritta e trasmessa dalla tradizione della Chiesa e insegnata dal Magistero ordinario e universale. Aggiunge e rincara la dose, nessuna circostanza, nessuna finalità, nessuna legge al mondo potrà mai rendere lecito un atto che è intrinsecamente illecito, perché contrario alla legge di Dio, scritta nel cuore di ogni uomo, riconoscibile dalla ragione stessa e proclamata dalla Chiesa. Sicuramente il Papa attualmente regnante, e lo dico, farà analoga lettera enciclica. E lo dico e lo spero, qualora qualcuno venisse in mente di andare a far approvare pubblicamente le unioni tra omosessuali, che sono non diversamente sotto l'aspetto della legge naturale, gravemente contrarie alla legge di Dio. Perché su questo l'insegnamento della Chiesa è chiarissimo e della Scrittura. Che gli atti omosessuali sono contro natura. E non fa niente se poi fanno le leggi e ci portano tutti quanti in galera, perché questo non si può dire. Non fa niente. Nessuno può chiudere la bocca a chi in nome di Dio, pur nella dovuta e doverosa carità, proclama la verità. Allora, cosa vogliono dire queste cose? L'aborto diretto, cioè voluto come fine, quindi mi voglio disfare di questa vita perché non la voglio, o come mezzo. C'è l'aborto terapeutico, no? C'è l'aborto terapeutico, cosiddetto. Io ti faccio l'amniocente, sì, cosa che non si può fare, oppure dall'indagine prenatale capisco che il bambino sarà malato o malformato, allora per evitare che nasca un bambino malformato, quindi non è che io lo voglia ammazzare direttamente, facciamo l'aborto. No, no, no, no. O le altre scemenze che sono circolate qualche mese fa, le altre scemenze che sono circolate qualche mese fa, da parte anche di qualche sembra, spero che non sia vero, esponente di qualche conferenza episcopale. Ah, ma se c'è stato uno stupro, specialmente non lo so se una suora o qualcuno è stato stuprato, in quel caso sarebbe lecito l'aborto. Ma guarda, in quel caso sarebbe lecito. E quel poro, e quella pora creatura che è stato concepito in questo modo così balordo, deve andare a pagare il prezzo della follia e della cattiveria umana, sopprimendo una vita umana, oppure questo autorizzerebbe, toglierebbe l'intrinseca cattiveria dell'atto? Voi capite che nessuno vuole minimizzare la tragedia che si determina in un caso di questo genere, ecco, perché è una tragedia gravissima, ma non possiamo risolvere una tragedia con un'altra tragedia, ancora più grave per certi aspetti. E quando un atto è intrinsecamente cattivo, come qui dice, non può diventare mai buono per nessun motivo, mai. Quindi questo non si può fare, mai, per nessun motivo e per nessuna ragione, vedete, nessuna circostanza. Quindi, dice, ma io ho concepito asilo di violenza carnale, non fa niente, nessuna finalità, ma lo faccio soltanto per impedire un gesto malformato, un bambino malformato, non fa niente. E nessuna legge al mondo, ma la legge me lo consente, quindi si può fare. Niente. Potrà mai rendere lecito un atto che è intrinsecamente illecito. State attenti, ragazzi, perché oggi, purtroppo, con la depravazione dei costumi, io adesso non posso farvi una lezione di diritto perché l'ho studiato, ecco. E con l'avvento dei moderni cosiddetti stati di diritto, che bisognerebbe chiamarli piuttosto stati di non diritto, possono entrare nelle legislazioni norme che autorizzano ciò che è assolutamente contrario alla legge di Dio. Non c'è soltanto l'aborto, c'è anche il divorzio. E non è che siccome la legge lo consente, allora è diventato lecito. La legge lo consente, ma quello che la legge consente davanti a Dio non c'è nessun valore. Ricordate sempre quello che ha risposto San Pietro dinanzi a alle autorità religiose, tra l'altro del suo tempo, bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Non è che siccome, così come quando tutti quanti vanno a dire, ah, io lo so, questo non si può fare, ma lo fanno tutti, oggi lo fanno tutti e chi se ne importa? Non è che se tutti si vanno a buttare a mare e muoiono, allora è diventato lecito buttarsi a mare. Sei diventato matto se ti butti a mare perché lo fanno tutti. Uccidere un essere umano innocente è molto peggio che buttarsi a mare, molto peggio che buttarsi a mare. Quindi, mi raccomando, su questo, ragazzi, dobbiamo essere, e colgo l'occasione, tanto non me ne vorrà sicuramente la direzione di Radio Buon Consiglio, di invitare chiunque possa alla prossima marcia per la vita. L'anno scorso eravamo in tanti a Roma, eravamo, si conta, quasi in 10.000. Quest'anno si spera di essere il doppio, il triplo, il quadruplo. Ecco. Ci sono alcune sante persone che stanno mobilitandosi per raccogliere delle firme in tutta Italia per far abrogare la legge 194. Ecco. La legge 194, l'infausta, l'infame legge 194. Infame. E chiunque ci ha messo la firma lì sopra, questo lo dico come Don Leonardo, credono che se la vedrà col Padre Eterno. E anche in un caso del genere tu non puoi dire, ma io sono il Presidente della Repubblica, però il Parlamento l'ha approvato e ci metto la firma. Tu la firma, ti fai cascare le mani, dai le dimissioni, ma non ce la metti lì sopra. Quindi non ce la metti. Cioè, capite? Non, dobbiamo fare sempre attenzione, ragazzi. Qui, cioè, al di sopra anche delle più sante e più sacre istituzioni umane, d'accordo, che nessuno mette in discussione, c'è la legge di Dio. Quindi, dinanzi alla legge di Dio, non ci stanno santi che tengono. Non ci stanno santi che tengono. Ok? Quindi vi invito, chi può, io andrò e ci sarà un pullman della mia parrocchia, come sono già stato. Chiamo qualcuno che mi sostituisce alle messe mattutine e si va alla marcia per la vita. Non bisogna pensare, dice, ma tanto non ci si fila nessuno, siamo minoranza, non fa niente, non fa niente, non fa niente. Perché noi intanto andiamo ad alzare la voce e a dire no. L'anno scorso la Marcia per la Vita sul mio canale YouTube e anche sul sito della parrocchia, che penso che conosciate, insomma, il mio canale YouTube, basta che cerchiate su YouTube Don Leonardo Maria Pompero, trovate subito. Ecco, il sito della parrocchia, basta che cercate Parrocchia San Michele Arcangelo Latina, su Google ve lo dà come primo risultato, perché è abbastanza visitato. Nell'area video andatevi a vedere. L'anno scorso c'era l'ultima figlia di Santa Giovanna Beretta Molla, che io tra l'altro ho conosciuto. Quella che per farla partorire la mamma è morta, per farla nascere. E che andava a dire davanti a tutti mia mamma per far nascere me, perché io oggi così qui a parlare, è morta. Altro che l'aborto. Non ci sono ragioni per questa cosa qui. Non ci sono. Non ci sono, non ci sono e non ci sono. Non ci sono. E poi quando parleremo del sesto comandamento riprenderemo questo discorso. La vita non è una minaccia. Una vita umana è un prodigio dell'Altissimo. Un prodigio. E la divina provvidenza esiste. La data di oggi c'è sta la crisi, non abbiamo il lavoro, non abbiamo niente. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Avete letto il Vangelo, ragazzi? Andate a riprendere il capitolo sesto del Vangelo di Matteo. Se Gesù dice non vi date pensiero per la vostra vita, di quello che mangerete, di quello che berrete, di come vi vestirete, ci penso io. Non vuol dire che uno faccia lo sfaccendato. Dice ma non ci basteranno i soldi, ma non, chi ti ha detto che non ti bastano? La Divina Provvidenza provvederà. Provvederà in qualche modo. E se dovrai chiedere aiuto a qualcuno, chiedi aiuto a qualcuno, ma non è poi ammazzare una persona perché ti pure che ti bastano i soldi per la fine del mese. Qui siamo diventati, ragazzi, una banda proprio di persone completamente, a mio avviso, fuori di testa, ma di brutto, non di poco, proprio di brutto, di brutto, di brutto. Siamo completamente proprio privi di ogni normale cognizione e di ogni ragione. Va bene, andiamo avanti. Terminato quindi l'aborto, con queste parole forti di Giovanni Paolo II, non solo di fede, perché dice che questa dottrina è riconoscibile dalla ragione stessa. Quindi chiunque ragioni può comprendere l'intrinseca cattiveria di questa scelleratezza che è l'aborto. Sempre nella stessa enciclica, sempre nella stessa enciclica, il beato Giovanni Paolo II, quindi sempre nell'Evangelium Vitae, un titolo molto significativo, il Vangelo della vita. Questo caro mondo di oggi, che sono tutti belli, sono tutti allegri, sono tutti contenti, sono dei fautori di morte. La morte, la morte, la morte, aborti, eutanasia, divorzi, quindi la morte della famiglia, la pena e l'angoscia dei figli, sbattuti qua e là, liti, cose. Ecco, queste sono le opere di Satana, sono. Dov'è questa grande cultura moderna dove tutti sono felici e contenti e possono fare quello che gli va? Che cosa stanno combinando? Stanno trasformando il mondo in un cimitero. In questi modi e in altri più gravi, che ha fatto più morti il XX secolo di sicuramente di tutti quanti i 20 secoli precedenti, sicuro. Ma può darsi che ci arriviamo anche molto prima. Quindi, questo grande mito della società moderna, come la panacea di ogni felicità e di ogni cosa, non ha fatto altro che produrre un mare di sangue, ecco, e a strapopolare i cimiteri, tant'è che davvero sono stati popolati perché la stragrande maggioranza delle persone fatte secche sono state bruciate, come sapete, oppure buttate dentro, chi lo sa dove. Sapete che c'è anche un'altra questione a proposito dell'aborto, scusate, sta appendice che c'è stato qualcuno opportunamente, che ha reclamato il diritto di questi feti, chiamiamoli così, di queste persone, uccise vigliaccamente nel grembo della madre con la connivenza dei macellai che lavorano per questo fine e che se la vedranno anche loro col Padre Eterno, perché non dovrebbero fare questa cosa, perché se nessuno facesse gli aborti non si farebbero. Ecco. E anche qui non è giustificato dire tanto qualcuno lo deve fare, lo faccio io. Tu non lo fai intanto, che poi Dio provvede. Tu non lo fai intanto, che poi Dio provvede. Quindi qualcuno ha rivendicato giustamente la necessità di avere un cimitero per i feti, di non buttarli nel materiale biodegradabile. Ecco. E non ha da torto, a mio parere, per quanto mi riguarda. Ora, parliamo adesso dell'eutanasia. L'eutanasia in senso stretto, quando è eutanasia, adesso per cui vedremo, dobbiamo fare subito una distinzione tra eutanasia in senso stretto, che è proibita, e accanimento terapeutico, che non è, che è il contrario, d'accordo, che è semplicemente impedire con mezzi spropositati alla natura di fare il proprio corso, cioè nel senso che certamente noi cristiani siamo dalla parte della vita e dobbiamo, specialmente i medici, un medico nel giuramento di Ippocrate dice che deve proteggere la vita ad ogni costo, sempre, e deve curare, non ammazzare. Se lo ricordassero questi qui, i medici che l'hanno fatto loro il giuramento di Ippocrate, lo devono fare il giuramento di Ippocrate prima di fare i medici, eh? Ecco. E anche su quello saranno giudicati, secondo me, da Domine Dio, eh? Non soltanto sulla legge morale, perché hanno pure giurato i servizi della medicina per fare del bene alle persone, per guarire dalle malattie e per tutelare la vita, non per seminare la morte. Questo tanto per mettere qualche puntino su di sé, perché poi ognuno si occupa delle cose proprie. Allora, cioè, l'accanimento terapeutico, è meglio parlare, quando è che si ha? Una persona sta alla fine, sta così e con gli strumenti moderni, io adesso vi faccio subito un esempio di quello che successe quando stava per morire la mia nonna materna. Cioè, oggi ti possono tenere vita attraverso forme di alimentazione assurda, sondine, cose, impicci. Io mi ricordo che quando mia nonna stava male, si era rotta il femore, aveva 90 anni, insomma, quindi stava proprio spegnendosi, e siccome non riusciva più a mangiare, adesso non mi ricordo com'era, attenzione, questa non era l'alimentazione artificiale di chi sta in coma, che è doverosa. E non facciamo il Juan Englaro numero 2, eh? Quindi questa era una persona che stava al termine della vita e che avrebbe dovuto alimentare attraverso un intubamento messo, una cosa dolorosissima che gli mandava direttamente dentro lo stomaco alcune sostanze, eccetera, e mia nonna se la strappò, quella lì, momenti morendo, rischiando di morirci. I medici chiamarono i figli, dice: ma qui veramente questa è una sperimentazione decente, questa potrebbe allungare di qualche giorno. I figli si consultano, dice: ma scusate, a noi questo sembra accanimento terapeutico, per cui fate le cose ordinarie, fategli tutte le flebo necessarie, ma non fate questa cosa qui. Cioè, nel senso, certamente che noi difendiamo la vita, ma la vita terrena, cioè non è che facciamo, come dire, gli scongiuri perché basta che io campo e che resto 3 giorni più sul pianeta Terra. Cioè, per noi, tra l'altro, cristiani, la vita non finisce sul pianeta Terra, per cui il nostro rapporto con la morte è un rapporto sereno, non ce l'andiamo a cercare e non ci arroghiamo il diritto noi di decidere quando arriva sorella morte, ma quando arriva sia fatta la volontà di Dio, Signore, nelle tue mani consegno il mio spirito, finito, insomma, senza fare della vita terrena un totem, un feticcio da adorare e a cui prostrarsi senza condizioni, in tutte le forme, a tutti i costi. Quindi l'accanimento terapeutico è, e quindi non scegliere la via dell'accanimento terapeutico non è affatto autorizzare l'eutanasia, cioè la dolce morte, ma è semplicemente lasciare che la medicina usi i mezzi ordinari per affrontare le singole patologie e lasciando alla natura che faccia il suo corso. Ecco. Ma che cos'è invece l'eutanasia? È un atto positivo, un atto positivo con cui una persona arbitrariamente decide di sospendere le normali cure ordinarie per certe patologie, ivi comprese in alcuni casi, per esempio l'alimentazione artificiale, nei casi per esempio di coma. Perché se tu, ma quante persone si sono risvegliate dal coma? Tantissime. Ecco. Allora, il Papa anche qui dopo aver precisato che la rinuncia a mezzi straordinari o sproporzionati, cioè accanimento terapeutico, non equivale al suicidio o all'eutanasia, ma esprime piuttosto l'accettazione della condizione umana di fronte alla morte, cioè se è arrivata l'ora, è arrivata l'ora, punto. Afferma però senza esitazione che fatte queste distinzioni, in conformità con il magistero dei miei predecessori e in comunione con i vescovi della Chiesa Cattolica ancora, confermo che l'eutanasia è una grave violazione della legge di Dio, ancora, in quanto uccisione deliberata e moralmente inaccettabile di una persona umana. Quindi l'eutanasia, se una persona la sceglie coscientemente, guardate il caso Welby, è un suicidio volontario, è un suicidio volontario, per questo non gli hanno fatto i funerali a Welby in chiesa, meno male, meno male, perché vi accennavo la volta scorsa, cioè a differenza dell'antica disciplina, oggi è possibile fare in chiesa i funerali di un suicida. Ecco, però attenzione, è possibile, perché guardate, questo è uno dei punti su cui bisogna assolutamente stare attenti, perché il fatto che sia prevista una possibilità non vuol dire che quella cosa è diventata normale. D'accordo? Non vuol dire che quella cosa è diventata normale. Oh, al suicidio una persona potrebbe essere arrivata perché spinta alla disperazione, perché oppressa da debiti, da situazioni comunque che ti spostano l'equilibrio interiore tale che. Ecco, ma una persona che sceglie in quel modo l'eutanasia, tra l'altro, come dire, facendone anche uno strumento mediatico, uno strumento di lotta, ecco, cioè un gesto clamoroso per attirare l'opinione pubblica verso quel problema, d'accordo con tutti coloro, i cui nomi li sapete benissimo, che sono stati vicini a quella situazione, quello non c'è nessuna circostanza attenuante, anzi, quello è compiuto con lucidissima coscienza e con deliberatissimo consenso. A occhi completamente spalancati. Quindi, che fai? Cioè, da un punto di vista esterno, tu c'hai la certezza che quello ha commesso un peccato mortale. È ovvio che il cuore lo vede soltanto il Padre Eterno, no? Però noi, attenzione, non le persone, ma i fatti compiuti, questo è come quando un giudice penale deve pronunciare una sentenza di assoluzione o di condanna. Non è che può entrare dentro il cuore della persona e capire se questa aveva dei problemi o delle circostanze attenuanti. Io l'ho studiato diritto penale. Deve verificare, uno, che un fatto criminoso sia stato commesso. Secondo, che sia stato commesso dalla persona imputata. E terzo, che questa persona l'abbia fatto con coscienza e volontà, dice, vi ricordo ancora, il codice penale, e con dolo. Quindi si rendeva conto di quello che sta facendo. Ha voluto farlo intenzionalmente. Basta. Quindi. Anche un sacerdote, quando si trova in confessionale, cioè se sei, voi sapete che Padre Pio c'ha un sacco di gente perché poteva guardare le intenzioni nascoste, cioè, ma se una persona dice che si è, so, che si è pentito, tu l'assolvi, ma se emerge oggettivamente dalla confessione che la persona non è pentita, vi faccio subito un esempio, arriva un caso, che è il caso classico, classico caso di scuola, arriva una persona sposata che usa la spirale, tu gli dici guarda, che la spirale è proibito, non si può usare, te la devi togliere, te la togli? No. Se ti risponde di no e non dà nessuno spiraglio, quella non può essere assolta. Capite? Non può, perché l'assoluzione non conta assolutamente nulla. Non si tratta di condannare ah, ma ha giudicato, ma non si tratta di giudicare, cioè tu stai facendo quello che tu stai facendo. È oggettivamente contrario alla legge di Dio e non ci sono segni del fatto che tu hai capito questo e che vuoi ritrarti da questo. Cioè, Il Signore perdona chi è pentito. Attenzione anche adesso che arriva tanto di moda la misericordia, la misericordia, la misericordia, la misericordia è il più grande attributo di Dio 800 miliardi di volte. Ma attenzione, la misericordia non è la negazione del peccato, non è dire non fa niente qualunque cosa fai, non è dire fa tutto quello che ti pare, tanto ti perdono sempre e tanto ti diamo tutti quanti in paradiso. Se viene intesa in questo modo la misericordia diventa il bypass per l'inferno, cioè diventa, come dire, il centro di smistamento a propulsione interna e sistematica di nuovi abitanti del sottosuolo. D'accordo? D'accordo? Cioè, quando c'è una possibilità, adesso a me ieri mi hanno detto su Facebook che è stata equivocata chiaramente un'espressione del Sommo Pontefice a proposito del battesimo, com'era? Del battesimo dei figli, delle persone conviventi. Allora, è ovvio che il battesimo, cioè, voi capite, quando c'è una situazione matrimoniale irregolare. Se i genitori si presentano a battezzare il figlio, certo che quel figlio lo devi battezzare, perché è impossibile che la colpa di un genitore ricada su un figlio. Questo è ovvio. E io personalmente ho sempre contestato, perché qualcuno purtroppo lo fa, l'atteggiamento di chi dice, ma siccome i genitori hanno fatto delle scelte contrarie al Vangelo e quindi non hanno niente a che fare con la vita di fede, che battezzi a fare il figlio perché tanto poi non gli daranno un'educazione cristiana. Questo atteggiamento è un atteggiamento che pur essendo in qualche modo e avendo qualche appiglio, ma non praticabile, perché comunque il battesimo è un bene assoluto per il bambino. Dovrai stare attento a trovare dei padrini adeguati e certamente se la coppia è convivente, perché convive così, perché non c'è niente da fare, con tanta carità, ma certamente uno scuotimento di coscienza glielo devi dare. Come sei venuto a chiedere il battesimo per i tuoi figli, tuo figlio quando crescerà ti dirà: perché mi hai fatto diventare cristiano? E tu ti sei sposato in chiesa. Quindi certamente che il battesimo si fa, ma non è che si fa dicendo bravi a questi che hanno fatto i figli prima di sposarsi. Ecco, d'accordo? Il Papa l'altro giorno ha citato questo, condannando giustamente la prassi di alcuni sacerdoti che, mostrando una rigidità eccessiva e assolutamente inopportuna, non battezzano i figli dei conviventi. Allora, risonanze su Facebook, vedete come funziona oggi. Finalmente è arrivato questo Papa e sono accadute, finalmente siamo tutti accettati e possiamo fare tutto quello che ci pare. Ma non ha detto questo il Papa. Ci mancherebbe soltanto che abbia detto una cosa del genere. Non ha detto questo. Non l'ha detto. E non lo può dire. Cioè, non ha detto se ti sposi in chiesa o se convivi è la stessa cosa. Non lo è. Quindi voi capite anche qui, dal fatto che tu, come dire, sei indulgente per un bene maggiore, come dire, andando incontro ad una situazione che è comunque grave di fronte a Dio. Cioè, non è che se tu convivi non è niente. Sai quante volte mi sono trovato a discutere con tante famiglie che i figli vanno a convivere, dico, ma tuo figlio va a convivere e tu gli dici niente. Che devi fare, padre? Ormai oggi fanno tutti così. Dico, io ringrazio Dio che non mi sono sposato e non c'ho avuto i figli grandi. Tu fa che mio figlio faceva così. Dopo te faccio vedere se lo fanno tutti. Non mi importa niente, tu puoi fare questo qui, se tu c'hai 30 anni certamente non te lo posso mica impedire. Questo determinerà qualche più forse piccolo cambiamento nell'equilibrio dei rapporti familiari. Cioè, certamente che io non ti posso obbligare, ma posso manifestare in tanti modi e in tante forme un dissenso anche forte nei confronti di questo, perché tu sei libero, ma io non ti do la benedizione e l'approvazione al fatto che tu ti metti sotto i piedi la legge di Dio. Se non te ne importa niente, continua pure, ma senza il mio consenso. Quindi attenzione, quindi anche qui fatte quelle eccezioni, ecco. Dice quindi che chi fa l'eutanasia, la persona se il malato consente o chiede una cosa di questo genere, è suicida. E tutti coloro che vi cooperano sono omicidi. Proseguo la lettura. Tale dottrina è fondata sulla legge naturale e sulla parola di Dio, scritta e trasmessa dalla tradizione della Chiesa e insegnata dal Magistero dell'Ordine Universale. Una tale pratica comporta, a seconda delle circostanze, la malizia propria del suicidio, vedete, quando una persona lo sceglie, o dell'omicidio, quando una persona sta in coma, e io mi arrogo il diritto di dire stacchiamo la spina e la mandiamo al creatore. Attenzione ragazzi, su questi temi noi dobbiamo essere agguerriti. Perché se ci facciamo scappare di mano la chiarezza su queste cose, una società che rinnega la vita si consegna alla morte, si consegna al demonio, che è chiamato nella scrittura il Signore della morte, nella lettera agli ebrei, il Signore della morte. Ecco, noi abbiamo un Dio che è morto, ha accettato di morire per darci la vita. Ecco, non è venuto a dare la morte. Ma dare la vita, sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Quindi attenzione, perché oggi i cattolici devono essere ben formati su queste delicatissime e autorevolissime dottrine, devono avere il coraggio di annunciare senza timore e senza esitazioni, come diceva il beato Giovanni Paolo II, il Vangelo della vita. E in modo tanto più urgente e chiaro quanto subdole e reiterate continuano ad essere le aggressioni dei nemici di Dio. Che dopo essere riusciti ormai dappertutto, credo che soltanto l'Irlanda, non so se sta resistendo ancora, a legalizzare l'aborto, vorrebbero fare altrettanto con l'eutanasia, che peraltro, come sapete, è già legge in alcuni stati europei. Adesso la vogliono introdurre attraverso il cavallo di Troia del testamento biologico, cioè io avrei il diritto di scrivere che se mi trovassi in certe condizioni rinuncio alle cure e quindi di fatto scelgo io. Prima del tempo l'eutanasia. E questo non è possibile, ragazzi. La vita è un bene indisponibile, sempre e comunque. E noi non dobbiamo assolutamente temere di alzare e con forza la voce per gridarla a questi disgraziatissimi uomini del nostro tempo. Che il Signore li perdoni, ecco. E però che il Signore ci aiuti anche tutti a ritrovare un pochino di senno di discernimento e anche di coraggio per gridare con forza al mondo il Vangelo della vita. Io vi saluto ragazzi che siamo giunti al termine di questa trasmissione, vi do appuntamenti se vorrete la settimana prossima, a tutti Ave Maria.